E allora nuovamente in diretta con la piazza, abbiamo ancora un compagno che appunto si trova a San Giovanni. Ci senti? Sì, sì, un saluto a voi, i vostri ascoltatori e ascoltatrici. Benissimo, vai, magari raccontaci un po' così questo inizio di manifestazione. Allora, io mi trovo in piazza San Giovanni, che è ancora per più di metà piena, perché il corteo è già partito da un po', sta partendo, diciamo, non velocissimo, anche perché giungono notizie che l'ultima volta che mi hanno dato un aggiornamento, insomma, c'erano ancora una decina di pullman che dovevano arrivare per, insomma, i filtri che ci sono stati, soprattutto alle porte di Roma, poi in altri punti dell'autostrada. Direi che la partecipazione è buona, che, diciamo, la scommessa di questa giornata già da questo punto di vista mi sembra piuttosto riuscita. C'è una composizione molto variegata e varia, ed è quello che per me così dà un po' più il colpo d'occhio iniziale. Ovviamente c'è tutta la parte di apertura contraddistinta da innumerevoli spezzoni del e i movimenti di lotta per la casa di Roma, in molti casi anche con striscioni, diciamo, di palazzine occupate che hanno il loro striscione, la loro rappresentazione, quindi corteggia questi molto, diciamo, meticci da questo punto di vista, ma in generale mi sembra che questo corteo, così come, insomma, si è scelto anche nelle numerose assemblee, riunioni di preparazione tecnica e politica, il corteo esprime bene, diciamo, questa composizione mista. Dovevano esserci degli spezzoni ben definiti, a me sembra che in molti punti del corteo ci sia un mischiarsi dal mio punto di vista positivo tra, insomma, notava altre lotte territoriali, lo stesso movimento di lotta per la casa, una composizione giovanile studentesca che è numerosa, che è soprattutto quella, direi, delle esperienze di organizzazione, di lotta dei compagni e delle compagne, soprattutto, diciamo, del mondo così, diciamo, dei centri sociali, ma anche in termini più generali del precariato metropolitano, direi. Questo è un po', diciamo, il colpo d'occhio che si ha all'inizio. Già prima, che appena il corteo iniziava, insomma, fare i primi passi per, insomma, alleggerire un po' la piazza, si notava già anche tutta una disposizione di varie persone, secondo me non appartenenti a nessuna, diciamo, struttura di riferimento specifico, che stava già anche in testa al corteo in una dimensione così molto, molto spontanea, no? E diffusa di viversi la piazza e il corteo. Questo mi sembra un dato anche abbastanza interessante da sottolineare. Considera che la coda occupa ancora tutto il pezzo dietro di Piazza San Giovanni, che sono varie realtà, diciamo, di centri sociali, dell'autorganizzazione e pezzi dei sindacati di base. Qualche bandiera, devo dire, l'unica presenza un po' più istituzionale è qualche bandiera di Rifondazione, ma mi sembra più a titolo, diciamo così, individuale di singoli militanti di base, che non ovviamente come, diciamo, in dimensione organizzata, ecco. Va bene, senti, vi state già muovendo il corteo? Dove siete? Abbastanza piano. Lentamente, ok. C'è ancora un po' di pullman che devono arrivare, però sì, pian piano avanti. Adesso dove mi trovo sul retro della piazza è ancora, insomma, abbastanza piena di gente qua, è decisamente più fermo, anche perché conoscete, lì c'è l'imbuto, insomma, della chiesa e della cosa grossa, che non so cos'è, se è una cattedrale qua, sì, la cattedrale, la chiesa di Fionca, gli fa un po' imbuto, quindi sì, certo, si rallenta un po', ma il corteo credo sia già ben avanti, abbia già preso la prima via, non mi ricordo come via Merulana. Via Merulana, sì, sì, è già ampiamente dentro. Va bene, pronto? Sì. Non ti sentivo più, non so, volevi aggiungere qualcos'altro, sennò magari ci sentiamo più tardi. No, direi che, cioè, l'impressione è bella, mi sembra un corteo comunque partito dal basso, senza, diciamo, livelli istituzionali che lo promuovessero, che in larga parte hanno anche un po' contribuito o a silenziarlo o di alzare, diciamo, un clima di agitazione e di terrore, mi riferisco soprattutto ai media in questo senso, che erano molto presenti all'inizio con domande anche abbastanza idiote tra televisioni e radio mainstream varie, colpisce abbastanza questo, con una dimensione vasta, intergenerazionale abbastanza, che vede diverse composizioni di compagni e compagne che sono riusciti, nonostante tutte le difficoltà e le differenze, a costruire un appuntamento che che credo possa segnare qualcosa di importante di nuovo. Va benissimo, dai, per il momento ti ringraziamo, ci risentiremo sicuramente più là nel corso del corteo, allora. Un saluto a voi. Ciao, ciao. Grazie mille.